Questa sentenza di pochi giorni fa era particolarmente attesa, in verità non c'era soltanto il caso vittorioso delle anziane signore svizzere, c'erano altri due, di cui uno molto importante. L'importante di questa pronuncia è che è davvero una sentenza storica, perché è la prima volta che una corte sovranazionale, quindi in questo caso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, non soltanto lega i diritti umani e gli obblighi climatici, ma dice anche che se gli stati non fanno abbastanza per contrastare i cambiamenti climatici, di fatto violano i diritti umani. Quindi un precedente della massima importanza. Questo caso è arrivato alla CEDU perché in Svizzera, in questa associazione che si chiama Climate Signorinnen, composta appunto da un gruppo molto ampio di anziane svizzere, quasi 2000, aveva perso il processo e quindi ha deciso di andare appunto in Europa per vedersi riconosciuti i diritti che ritenevano violati, legati proprio alla mancata azione climatica della Svizzera. Particolare, di cosa accusavano la Svizzera? Di non fare abbastanza, quindi di fatto di avere politiche climatiche che non erano assolutamente sufficienti e quindi che questa insufficienza violava i loro diritti. Quindi ad esempio il diritto alla salute e altri diritti che appunto in particolare nel caso di gruppi particolarmente vulnerabili come gli anziani sono ancora più a rischio. In verità la CEDU ha riconosciuto una violazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che riguarda la vita privata e familiare, quindi ha riconosciuto che in qualche modo la mancanza di politiche climatiche viola questo diritto. È comunque un precedente della massima importanza perché, lo ripeto, è una corte sovranazionale, una corte europea, e questo può avere delle ripercussioni molto importanti all'interno degli stati europei, chiaramente. Tu raccontavi che appunto ci sono state anche altre pronunce, una non favorevole fatta da giovani portoghesi, giusto? Esatto, in realtà questa era la causa di cui si era parlato di più nei mesi scorsi, anche perché è una causa particolarmente ambiziosa, è conosciuta come caso Duarte, perché sono proprio sei giovani portoghesi, il primo firmatario si chiama appunto Duarte Agostinho, che hanno citato in giudizio di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 33 paesi, quindi il loro paese, il Portogallo, e altri 32 paesi. È stata definita la climate litigation più grande del mondo per il suo portato e c'era una grande attesa. Certo, c'erano delle questioni importanti che la CEDU era chiamata a risolvere. Intanto il fatto che questi giovani, pur essendo portoghesi, citavano in giudizio anche altri stati, quindi giuridicamente il tema dell'extraterritorialità era un tema. E poi un'altra cosa unica, diciamo, in questo caso è che questi giovani non avevano fatto un ricorso nel loro paese, ma erano andati direttamente alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi è stata appunto dichiarata inammissibile proprio perché la Corte ha ritenuto che dovessero, per quanto riguarda il Portogallo, prima andare a percorrere le vie di ricorso interne e per gli altri paesi sul tema dell'extraterritorialità che dicevo precedentemente. Però questa dichiarazione mai interpretata a nostro avviso in un modo positivo, nel senso che in qualche modo la CEDU sta dicendo alle giurisdizioni nazionali che devono pronunciarsi su cause in materia climatica, e questo è legato anche alla causa alla quale facevi accenno, la causa giudizio universale che in Italia abbiamo promosso, 203 soggetti hanno promosso contro lo Stato italiano e che è stata dichiarata inammissibile dalla giudice civile del Tribunale di Roma, proprio dicendo che c'è un difetto di giurisdizione. Ecco, probabilmente questa pronuncia della CEDU rafforza le nostre ragioni e rafforzerà anche l'appello che sicuramente promuoveremo impugnando quella sentenza. Una riflessione su questo strumento, uno strumento giuridico laddove la politica non sembra operare a sufficienza per contrastare la crisi climatica. Esatto, proprio come dicevi in premessa, è uno strumento che emerge dalla necessità di trovare degli strumenti nuovi per indurre chi deve agire, chi deve varare politiche a fare la sua parte. È uno strumento che ha avuto un grandissimo sviluppo negli ultimi anni, soprattutto dopo l'accordo di Parigi, perché ricordiamolo, l'accordo di Parigi è l'accordo globale sul clima, che quindi firmandolo in qualche modo vincola i paesi da un punto di vista giuridico a varare al loro interno, quindi a livello nazionale, politiche climatiche che siano adeguate a raggiungere gli obiettivi di quell'accordo, ha dato un riferimento legale importante per poter agire anche in sede giurisdizionale. nazionale. Quindi pensate che nel 2017, la prima volta che la UNEP ha censito il contenzioso climatico, quindi quante cause c'erano, ce n'erano poco più di 800-880. Invece pochi anni dopo erano già raddoppiate, nel 2020 erano 1500, oggi sono più di 2000, quindi stiamo parlando di un fenomeno veramente in rapidissima espansione. In Europa c'è stata una vittoria, la prima vittoria clamorosa è stata quella di Urgenda in Olanda contro lo Stato olandese, hanno vinto in Francia con quella grande campagna, l'Affaire du Siècle, quindi la causa del secolo, hanno vinto una causa amministrativa in quel caso, hanno vinto in Germania, adesso si è vinto anche a livello europeo, quindi quello che possiamo dire è che è uno strumento che in qualche modo è molto utile anche a livello di pressione politica e a livello comunicativo mediatico per raccontare l'urgenza di un'azione che è chiaramente una prerogativa, deve essere una prerogativa della politica a livello nazionale, a livello europeo, a livello internazionale.